come me. Se ha sete beve vino, se ha fame chiede il pane al suo vicino. Un uomo come me, quando regala un fiore, non è un fiore comprato ma è colto sotto al sole. Un uomo come me, la casa dove è nato, la vita senza luna quando dorme sul prato. Un uomo come me sorride e parla poco, perché legge nei tuoi occhi e poi capisce il gioco. Un uomo come me ha un lupo dentro il cuore, tu lo senti gridare ma non credi all'amore. Ah, un uomo come me, quando ti dice addio, tu dici arrivederci e pensi ancora a mio. Un uomo come me aspetta il tuo ritorno, liberando nel vento una rondine al giorno. E un uomo come me si allontana di sera, credeva fosse inverno e muore a primavera. Oh.